Bene, cari amici, allora prendo in mano il nostro libro, Il Falsario, la lotta quotidiana contro Satana. Siamo arrivati al capitolo settimo, che oggi termineremo. Il capitolo settimo è intitolato La vittoria di Cristo. E, naturalmente questo, sotto il profilo teologico, è uno dei capitoli più importanti del nostro libro. Per quale motivo? Dalla nostra catechesi, perché qui a Radio Maria non è che parliamo del demonio, qui a Radio Maria parliamo della vittoria di Cristo sul demonio, quindi spalancate bene le orecchie, perché evidentemente se non si mette in evidenza questo è chiaro che tutto il discorso viene falsato, cioè noi parliamo della lotta quotidiana contro Satana, la lotta per vincere naturalmente. Per vincere nella tentazione, quindi il titolo è importantissimo, Il Falsario, è importantissimo perché ci dà, ci indica già la natura di questo essere che si nasconde, che si camuffa e che cerca di ingannarci. Il sottotitolo è importantissimo perché dice che noi dobbiamo, col discernimento di Dio e con la forza di Dio, scoprirlo e vincerlo. Quindi dire che a Radio Maria si parla del demonio mi pare sia un modo di esprimersi piuttosto inadeguato. Diciamo che a Radio Maria si mostra la natura perversa e ingannatissima del demonio e si insegna a vincerlo con la luce di Dio e con la forza di Dio. Ecco, quindi questo capitolo, la potenza, questo capitolo dedicato alla vittoria di Cristo sul demonio è fondamentale, anche perché questo è il Vangelo, cioè cosa ci annuncia il Vangelo? In che cosa consiste la buona notizia? La buona notizia consiste nel fatto che siamo stati salvati, liberati, riscattati, da chi? Dal potere delle tenebre, dalla potenza del male. E da tutte le conseguenze che questa comporta, la morte, la malattia, il peccato soprattutto e poi la perdizione eterna. Dietro tutte queste realtà c'è il maligno, c'è la sua rabbia, la sua invidia, la sua cattiveria, la sua capacità di pervertire. Noi siamo stati liberati da tutto questo, questa è la buona notizia, questo è il Vangelo. Quindi la vittoria di Cristo sul demonio è un aspetto fondamentale del Vangelo, anzi è il Vangelo. Il Vangelo è la proclamazione della buona novella. Cos'è la buona novella? È la vittoria di Cristo sul potere delle tenebre, sul potere del male. Cos'è il Vangelo? È l'annuncio del regno di Dio nei nostri cuori, dai quali viene sloggiato il potere del male, il potere delle tenebre. Quindi non c'è dubbio, cari amici, che la vittoria di Cristo è il cuore di qualsiasi discorso che si possa fare contro il demonio. Cioè, quando si parla del demonio, in termini cristiani, in termini di fede, bisogna parlare della vittoria di Cristo sul male, sul maligno, sul potere del male, sulla potenza del male, sull'impero del male, sul regno del male. La parola principe di questo mondo, potere delle tenebre, sono parole evangeliche, anzi parole di Cristo. Ebbene, Cristo appunto ci dà questa bella notizia, questa straordinaria notizia che siamo per la sua forza di figlio di Dio liberati dal potere delle tenebre. E quindi è assolutamente evangelico, perché è scritto nei Vangeli, cogliere appunto i momenti fondamentali di questa lotta e di questa vittoria di Cristo su Satana e quindi sul suo impero. I Vangeli ci indicano due momenti fondamentali di questa lotta che comunque ha caratterizzato tutta la vita pubblica di Gesù. Perché noi vediamo che in tutta la vita pubblica di Gesù, lui che è la luce, che è la verità, che è la vita, che è la forza di Dio, mentre avanza scopre, mette in evidenza il potere del male, e noi vediamo come i demoni escono allo scoperto mentre avanza Cristo. E Cristo caccia i demoni con l'autorità del Figlio di Dio, non certamente con le lunghe preghiere degli esorcisti, che c'erano anche gli esorcisti ebrei del mondo ebraico. Quindi tutta la vita di Cristo è una lotta contro il demonio, che lui fa con la sua predicazione, con i suoi miracoli, con i suoi esorcismi. Ma ci sono due momenti fondamentali. di questa lotta personale di Cristo, di questa lotta vittoriosa contro il demonio. Il primo momento è l'inizio della vita pubblica di Gesù con le tentazioni, che non sono soltanto tre. L'evangelista Marco non dice che Gesù fu tentato. Quindi Satana si cogitò ogni genere di tentazioni. Poi gli evangelisti Matteo e Luca hanno indicato soprattutto tre tentazioni che erano rivolte a sviare Cristo dal suo programma messianico di servo sofferente e umile di Yahweh. Però è Luca stesso che ci dice che Satana tentò nei confronti di Cristo ogni genere di tentazione. Questo è il primo scontro vittorioso. È uno scontro, non è l'esito della battaglia. È uno scontro dove Satana ha assaggiato la potenza del figlio di Dio, del nuovo Adamo. Dove Satana registra una cocente sconfitta, lui che era abituato sempre a vincere. Ma il duello decisivo, cari amici, abbiamo detto, ed è l'evangelista Luca, sono i Vangeli che ci conducono su questa strada, il duello decisivo è avvenuto nel momento della passione. L'orto di Getsemani, come gli esegeti concordemente affermano, è in contrapposizione al paradiso terrestre, all'Eden. Là c'era un giardino, anche i Getsemani sono un giardino. Là nel paradiso terrestre c'era l'antico, il primo Adamo, qui c'è il nuovo Adamo. Là Satana tentò e vinse, qui Satana tenta e perde. La tentazione del Getsemani l'abbiamo sottolineata ieri, è una tentazione particolare, essendo ormai spuntate tutte le armi della seduzione, Satana assale Cristo in uno di quei modi che forse anche qualcuno di noi ha sperimentato nella sua vita, cioè l'angoscia, la paura, il terrore, il timore, lo scoraggiamento, la desolazione, la solitudine. Abbiamo descritto ieri questo clima di oppressione, angoscia, scoraggiamento, sensazione di vuoto, di fallimento, di inutilità. Sono le anime mistiche che hanno indubbiamente colto meglio questa psicologia della tentazione di Cristo nel Getsemani. Sono le anime mistiche. Ma che sia Satana all'opera non c'è dubbio. Lo dice l'evangelista Luca, appunto, che dopo averlo tentato in tutti i modi lo lasciò per accostarsi in un secondo momento, ed è nella visione di Luca il momento del Getsemani, ma è Cristo stesso che lo dice quando appunto si avvicinano per prenderlo, dice: questo è la vostra ora, l'ora dell'impero delle tenebre. E questa è la lotta. Dunque nel Getsemani, attenzione, quando io parlo di Getsemani parlo di dell'inizio della passione, quindi è tutto il dramma della passione, e tutto il dramma della passione va letto, come già ho spiegato in diverse occasioni, va letto secondo un duplice aspetto, dal punto di vista diciamo così della risposta di Cristo, della fedeltà di Cristo, della sofferenza di Cristo, è la passione, l'epifania dell'amore di Dio. Anzi, io personalmente, anche proprio come mia meditazione personale, come nutrimento della mia fede, sono molto più colpito, più confermato nella fede, nella divinità di Cristo. Cioè, voglio dire che io personalmente colgo la divinità di Cristo più nella passione che addirittura in altri momenti della sua vita. Personalmente ritengo, se dovessi fare un elenco dei motivi di credibilità per cui io credo che Cristo è Dio, ecco, se dovessi fare una gerarchia dei motivi di credibilità, direi in primo luogo la sublime santità di Cristo, una santità che non si riscontra in nessun essere umano, ma questa santità di Cristo si manifesta soprattutto nella passione, la sua bontà, il suo amore, la sua capacità di perdonare, la sua forza, la sua sofferenza, la sua dolcezza. La passione è l'epifania della divinità di Cristo e dell'amore di Cristo. Ma nel medesimo tempo, cari amici, vi ho già detto che la passione è una regia satanica. Satana entrò in Giuda ed è quindi anche il momento del massimo odio. Il massimo odio da parte del maligno e da parte del mondo solidale con lui. Quindi la passione è l'epifania dell'amore di Cristo ed è anche l'epifania dell'odio del maligno e del mondo nei confronti di Cristo. Questo è il grande duello della passione. Ed è in questo modo che Cristo ci ha redenti, facendo prevalere il suo amore sull'odio, il suo perdono sulla implacabile desiderio di eliminarlo. In che modo la vita, come dice la sequenza della messa di Pasqua, no? La sequenza dopo la seconda lettura dice la vita e la morte si sono affrontate in un mirabile duello, la vita ha vinto. Ma la vita ha vinto, cari amici, non perché Cristo è risorto, la vita ha vinto perché Cristo ha amato, perché Cristo ha sofferto, perché Cristo ha patito, perché Cristo ha sopportato, perché Cristo ha perdonato. Ecco perché la vita ha vinto, l'amore ha vinto e poi naturalmente la vittoria dell'amore sta alla base della resurrezione. Quindi è nella passione e in particolare, la passione che comincia col Getsemani naturalmente, e in particolare nel momento della crocifissione della croce, quando dall'alto della croce dice Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, e dalla croce è con la croce che si è manifestata la vittoria di Cristo su Satana. Naturalmente Satana è presente anche, naturalmente è presente Satana nel Getsemani, è presente in tutta la passione ed è presente ai piedi della croce. Quando, naturalmente è presente ma nascosto, ma è presentissimo, quando, cari amici, si rivolgono a Cristo dicendo se sei il figlio di Dio scendi dalla croce. Questa è la sfida satanica, scendi dalla croce. Quindi, come acutamente ha notato l'Evangelista Giovanni quando dice Satana entrò in Giuda, sta a significare questa regia del maligno per eliminare Cristo. L'odio del maligno contro Cristo, che non era riuscito a sedurlo, non era riuscito a farlo deviare, non era riuscito a farlo suo, allora cerca di eliminarlo. Qui si manifesta tutto l'odio satanico che poi alberga nel cuore degli uomini, degli aguzzini, di tutta quella marmaglia che da allora e fino alla fine dei tempi trafigge il cuore di Cristo e di Maria. Questo odio non è affatto estinto, continua nei confronti della Chiesa. E quindi si manifesterà soprattutto alla fine dei tempi. Continua lungo tutto il corso della storia della Chiesa e si manifesterà soprattutto alla fine dei tempi, infatti dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, nel numero 675, alla fine dei tempi, quando verrà appunto l'avversario, quando verrà l'uomo iniquo, no? Il figlio della perversione, la Chiesa sarà chiamata a rivivere la passione di Cristo. L'Apocalisse dice appunto che alla fine dei tempi Satana cercherà di annientare la Chiesa così come ha cercato di annientare Cristo. Prima perseguiterà la Chiesa lungo tutto il corso della storia così come ha perseguitato Cristo lungo tutto il corso della sua vita, seducendolo, cercando di sedurlo, cercando di ostacolarlo. Così avverrà per la Chiesa, avviene per la Chiesa e avviene per uno di noi. Satana cerca di ostacolarci e cerca di sedurci, ma alla fine dei tempi cercherà di annientare la Chiesa, così come ha annientato Cristo. Questo è chiarissimo dall'Apocalisse e l'insegnamento del Catechismo della Chiesa Cattolica. Però quella vittoria di Cristo con la sua passione già prefigura anche la vittoria finale della fine dei tempi. E la passione è il grande duello fra l'amore e l'odio, fra Cristo e Satana. E la passione è il grande duello. Nella passione Cristo ha vinto, l'amore ha vinto, il perdono ha vinto, la remissione dei peccati è stata ottenuta per tutti gli uomini. Quello che mi pareva sottolineare, ho accennato già ieri, però voglio sottolinearlo con più forza oggi, è il modo con cui Dio ha ottenuto la vittoria sul maligno nella passione. Perché nella passione si è ottenuta la vittoria sul maligno. Naturalmente quando parlo di passione parlo di tutto il mistero pasquale e quindi anche nel suo momento culminante che è la resurrezione, che è il giorno di Pasqua. E appunto come Cristo ha ottenuto la sua vittoria, Dio l'ha ottenuta usando lo stesso piano di Satana. Cioè Satana ha cercato, seducendo Giuda, subilando i capi del popolo, eccetera, ha cercato di togliere Cristo dalla faccia della terra, questo è il suo piano, no? Il suo piano satanico, il piano dell'odio, togliere Cristo dalla faccia della terra, il piano, un piano omicida, no? Come dice Gesù, è omicida fin dal principio, l'omicidio più grande Satana l'ha consumato nei confronti di Cristo. Mai dimenticare, cari amici, queste dispute strane, se siano stati gli ebrei o i romani o chi per loro a uccidere Gesù Cristo. È come la disputa se siano stati i servizi segreti bulgari o russi ad attentare a Giovanni Paolo II. Ma questi sono tutti strumenti umani, la regia è all'inferno. Quindi il regista della passione, cioè l'omicida, o se vogliamo il deicida, è Satana. È lui che ha sobillato. È lui che ha sobillato sia i capi ebrei sia le autorità romane. È lui che ha sobillato. È lui che si sobilla oggi, perché la passione continua fino alla fine dei tempi, come diceva Pascal. E la regia è sempre sua, è da stupidi non vederla, è da stupidi negarla, perché ce lo dice chiaramente la Sacra Scrittura. Quindi la regia è sua, il piano è suo, il piano della passione di Lucifero. No, è lui il grande regista, ma questo mi pare degno di grande riflessione. Quel medesimo piano con cui Satana ha cercato di eliminare Cristo è stato usato da Dio per sconfiggere il demonio. La croce, che è simbolo dell'odio del mondo nei confronti di Cristo, e dell'odio del maligno nei confronti di Cristo, è stata usata da Dio, la croce, come strumento per schiacciare la testa al serpente, per sconfiggere il maligno e per liberare il mondo dal male. E questa è una metodologia, cioè un modo di agire di Dio che va tenuto molto presente. Cioè Dio, per umiliare il maligno, usa i suoi stessi piani. E questo lo fa ripetutamente nel corso della storia. Ciò che Satana usa contro Dio, Dio se ne serve per umiliarlo e per sconfiggerlo. Ecco perché, giustamente, Bernanos fa dire al protagonista del suo romanzo celebre, il diario di un curato di campagna, no? Fa dire alla fine che tutto è grazia, anche il peccato serve. Ma questo è per la bontà di Dio, cioè Dio usa ciò che Satana ha escogitato per la tua morte, Dio nella sua misericordia lo usa per la tua vita. La croce che Satana ha escogitato per umiliare Cristo e per eliminare Cristo dalla faccia della terra con la complicità degli uomini, questa medesima croce usata da Dio per salvare il mondo. Se nei piani satanici la croce era segno dell'odio, Dio ne fa l'epifania dell'amore. Questa è quindi la potenza di Dio. Si vede qui tutta la potenza di Dio che usa i piani del demonio per sconfiggerlo. Qui si vede la vittoria di Dio, la grandezza di Dio, la forza di Dio, la supremazia di Dio, che è assoluta, cari amici, è assoluta. Ecco perché allora, benché noi dobbiamo naturalmente, leggevo in questi giorni alcuni consigli spirituali che dava una grande rivista cattolica, diceva giustamente questa rivista che non dobbiamo avere la psicosi del maligno, guai a noi, che noi dobbiamo sapere che il maligno c'è, ma non dobbiamo pensarci troppo, ma dobbiamo tenerlo lontano col comportamento retto della nostra vita. Tutti consigli ottimi, per la verità. No, però vorrei dire che a mio parere bisogna fare un passo in più, cioè nell'umiltà, quindi nella consapevolezza della nostra fragilità, pur nella consapevolezza della pericolosità del maligno, perché è di una pericolosità incredibile. Non abbiamo l'idea di quanto sia subdolo, di quanto sia pericoloso, di come si camuffi, specialmente poi dietro le persone pseudosante, si camuffa in un modo così perfetto che sembrano veramente sante, no? Quindi ha una capacità di camuffarsi straordinaria. È sempre il grande Bernanos che ha scritto un romanzo bellissimo in cui una delle creature del maligno si veste da prete, addirittura una donna, no? E recita perfettamente la parte del prete, la recita perfettamente. Il maligno ha quindi una capacità di camuffarsi, di ingannare, ed ha una capacità anche di sballottarci come le foglie al vento, no, che è tremenda. Quindi non si deve sottovalutare la capacità del maligno di ingannarci e di farci suoi. È talmente abile che riesce a convincerci che lui non esiste, quindi non bisogna mai sottovalutarlo, mai sottovalutarlo. Però io direi che certamente non dobbiamo pensare troppo al maligno, dobbiamo pensare a Dio, avere gli occhi fissi in Dio, come dice il Salmo, siano i miei occhi fissi nel Signore. Però dobbiamo, a mio parere, questo è uno dei fini anche di questo mio libro, dobbiamo coltivare nel cuore, non so come dire, dobbiamo coltivare nel cuore qualcosa di più, cioè nei confronti del maligno dobbiamo perdere qualsiasi paura, qualsiasi atteggiamento di quasi di sudditanza, perché noi con Cristo siamo vincitori. Se Cristo è presente in noi, se Maria è in noi, come dice Montfort, Maria in noi e noi in lei, e attraverso Maria Cristo in noi e noi in lui, questa presenza di Cristo ci deve liberare da qualsiasi paura del maligno, da qualsiasi complesso di sudditanza nei confronti del maligno. Perché se di Cristo diciamo tu hai il regno, tu hai la potenza, Cristo presente in noi, la sua forza è in noi, la sua potenza è in noi, la sua grazia è in noi, la sua luce è in noi, il maligno ne ha atterrito. È bellissimo a questo riguardo leggere per esempio la vita di Santa Caterina da Siena, no? La quale dice, perché lo dice perché ne ha fatto esperienza lei nella sua vita concreta, lei dice che il maligno ha terrore di un'anima in grazia di Dio. Terrore. Quindi dobbiamo veramente liberarci dalla paura del maligno, dal terrore del maligno, ma non liberarci dicendo ma che povero diavolo, ma no, ma chi è, ma no, ma noi siamo più forti, ma no, no, no. Questi atteggiamenti qui senza umiltà sono molto pericolosi, sono atteggiamenti carnali. Ma dobbiamo assumere un atteggiamento spirituale, e cioè la luce di Cristo in noi, la sua potenza, la sua grazia, la sua umiltà in noi, la sua forza in noi, non solo ci mettono al riparo dall'insidie del maligno, non solo ci mettono al riparo dall'insidie del maligno, ma terrorizzano il maligno. Cioè le anime in grazia di Dio sono il terrore del maligno. non so quale detto popolare, mi pare di Sant'Antonio, diceva che era il terrore dei demoni, no? Ma terrore del demonio lo è ogni anima in grazia di Dio, per cui vorrei dire, cari amici, con tutta umiltà, nella consapevolezza della nostra fragilità, nella consapevolezza della pericolosità del maligno, però noi dobbiamo liberarci da qualsiasi paura nei suoi confronti, perché la grazia in noi lo terrorizza, la luce in noi, la luce di Cristo in noi lo acceca, la nostra preghiera lo sconfigge. Vi ricordate come la Madonna stessa, la Regina della Pace, ci invita, pur avendo lei sottolineato che Satana è forte in più occasioni, la Regina della Pace però ci esorta: affrontate e vincete Satana con il rosario in mano. Ecco dunque come dobbiamo liberarci da queste paure recondite che noi abbiamo, perché se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Voi sapete che nella tradizione battesimale si usava, nel momento dell'esorcismo, e si usa tuttora in qualche diciamo così, forma di, così, di popolare, il soffio, nel soffio. Ecco, specialmente nella Chiesa orientale l'esorcismo si fa col soffio, si soffia. Perché? Perché nella seconda lettera ai Tessalonicesi San Paolo dice che Cristo annienterà l'anticristo, cioè l'uomo iniquo, annienterà il maligno presente in lui col soffio della sua bocca. Con un soffio viene annientato. Ecco la potenza di Dio, la potenza di Cristo. Ecco perché la Chiesa orientale nel battesimo dei bambini, nel battesimo usa il soffio come esorcismo, perché indica la potenza di Dio, basta un soffio. Ecco, il soffio della grazia annienta il maligno. Bene, cari amici, dopo questa panoramica, adesso possiamo leggere questo paragrafo finale del nostro libro, a pagina 51, dove intitolato il paragrafo "Tu hai il regno, tu hai la potenza", cioè solo di Cristo si può dire che tuo è il regno, tu hai la potenza, tu hai la forza, tu hai la vittoria. Vediamo allora questo, abbiamo fatto una lunga introduzione, se siamo in grado di leggere e comprendere bene questo paragrafo. Morendo sulla croce, siamo a pagina 51 del mio libro Il Falsario, morendo sulla croce, implorando il perdono del Padre sull'umanità, Cristo ci strappa al principe di questo mondo e instaura il suo regno sulla terra. Il maligno non ha potuto nulla contro di lui. Alla vigilia della passione l'aveva predetto: il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Giovanni 12,31. Ecco, questo mi preme sottolinearlo, perché come vi ho detto, la passione è un grande duello fra Cristo e Satana, e Cristo stesso lo dice in diverse parti. Quando dice: questa è la vostra ora, l'impero delle tenebre. Oppure, prima della passione, Cristo dice: il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Quindi si appresta al duello e alla vittoria. All'inizio del ministero di Gesù, Satana aveva osato offrire il dominio del mondo a Gesù, rivendicandolo come cosa sua, per diritto di conquista dopo la vittoria dell'Eden. Dopo la passione e la sua gloriosa resurrezione, lo scettro del mondo appartiene solo a Cristo. Prendete Matteo, capitolo 28, versetti 18-20, guardate che espressioni straordinarie. Cristo dice: mi è stato dato ogni potere, capito? Di Cristo è ogni potere, in cielo e in terra. Andate dunque, ammaestrate tutte le nazioni. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi a Cristo, per la sua vittoria, è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Davanti al Signore vittorioso ogni ginocchio d'ora in poi si deve piegare, dice Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetto 9, ogni ginocchio si deve piegare in cielo, in terra e sottoterra. Anche l'impero del male e il suo tenebroso principe sono soggetti alla potenza di Gesù. La storia del mondo è saldamente nelle mani di Gesù. e anche il male viene costretto a cooperare alla gloria di Dio. Per quanto, come dice Pietro nella prima lettera, al capitolo 5, versetto 8, il leone ruggente sia alla ricerca instancabile di chi divorare, tuttavia non può nuocere se l'uomo non acconsente. Per quanto riguarda la sua opera di seduzione e di persecuzione, per quanto sia piena di insidie, l'uomo, tuttavia, può vincere il maligno con la grazia di Cristo. Rivestito dall'armatura di Dio, come dice Paolo nella lettera agli Efesini, il cristiano è invincibile. Quindi, cari amici, il vero problema qual è? Il vero problema è che noi ci rivestiamo veramente dall'armatura di Dio. Cioè, il vero problema è che noi prendiamo veramente le armi che Cristo ci ha dato, le armi della fede, della parola di Dio, della grazia, dei sacramenti. Con queste armi il cristiano è invincibile. Cioè, partecipa il cristiano della vittoria di Cristo, della potenza di Cristo, del dominio di Cristo. Il tempo che viene concesso a Satana fino alla fine del mondo è per permettere all'uomo di riscattarsi combattendolo e vincendolo. Quindi la domanda, ma perché Dio non ha rinchiuso subito Satana nell'inferno dopo la vittoria della passione e della resurrezione? Risposta, è per dare a te la possibilità di vincerlo e di partecipare alla sua vittoria. Ecco perché lo ha lasciato libero fino alla fine del mondo. Il tempo che viene concesso a Satana fino alla fine del mondo è per permettere all'uomo di riscattarsi combattendolo e vincendolo. Dio non lascia un ulteriore spazio al diavolo perché si impadronisca delle nostre anime, ma perché noi con Cristo possiamo umiliarlo schiacciandogli la testa orgogliosa. Ecco il perché, cari amici, la risposta alla domanda. Perché Satana, pur essendo stato sconfitto ed essendo diventato Cristo il principe di questo mondo, perché ha la libertà di agire fino alla fine del mondo? Risposta è per dare agli uomini la possibilità di riscattarsi, di partecipare alla vittoria di Cristo schiacciando la testa all'orgoglioso. Radio Maria, abbiamo trasmesso Il Falesario, a cura di Padre Livio, edizioni Sugarco.